maestro, ti sento proprio basso, non riesco a capire. Sì, no, sento la chitarra, ma è troppo lontana. Eh sì, infatti, ma io qui lo sento pure abbastanza lontano. Lo sento pure abbastanza forte qui, in effetti. Lo so, hai ragione. Devo eliminare questi rumori. Non lo so, come posso fare a eliminare i rumori qua? Infatti, non ho capito perché adesso ci sono questi rumori. Sì, c'è una cuffia, magari la tolgo. Sì, ho messo una cuffia nelle cuffie e il cavo nel microfono. Sì. Non è che forse devo abbassare il volume del master mio? No, la semiacustica. Sì. Prova magari ad abbassare quella dal zero, perché io ti sento lontano, capito? Oltre comunque al rumore che c'è, chiaramente. Ok. Ok, adesso.